Carlo Levi, morte dei morti. L'uccisione dei capi fascisti è, a nostro avviso, il primo fatto in tutti i sensi esemplare delle vicende italiane di questi ultimi anni. Esso segna l'assoluto distacco dal passato, la fine di una crisi. Mussolini è morto, Pavolini è morto, Farinacci è morto. Sono morti, come era giusto, senza apparato e senza neppure la miserabile e triste gloria di un patibolo, né l'atrocità di un linciaggio. Sono stati uccisi da un tribunale del popolo, con la semplice naturalezza della giustizia. Hanno potuto essere uccisi così perché in verità essi erano già morti nel cuore degli italiani. Gli uccisori di Mussolini hanno compiuto un'opera storicamente, moralmente e direi quasi esteticamente perfetta. Essi hanno sentito di essere i rappresentanti di una civiltà nuova, di quella civiltà popolare che si è nascostamente formata sotto la crosta del fascismo, ma che con il fascismo, con i suoi dèi e i suoi idoli, non ha nulla in comune, per cui il mito di Mussolini non ha peso e ha perduto ogni senso, perfino quello ambiguo dell'odio. Mussolini non esiste per il nuovo popolo italiano, neppure come ricordo, né come odiata, amata immagine paterna. Questa funesta nuvola, dove si erano raccolti i vapori di tutti i complessi di inferiorità piccolo borghese, si è sciolta da tempo, in un cielo dove soffiavano altri venti. Di fronte a una realtà di tragedia, incautamente evocata, da cui nasceva nel dolore e nella morte un mondo nuovo, non c'era posto per la soddisfatta facilità della falsificazione melodrammatica, né per il funereo ciarpame delle aquile d'oro, dei fasci littori, delle lupe romane, degli idoli totalitari. Per il totalitarismo non c'è vero Stato, né vero popolo, ma una massa amorfa e un duce. L'identificazione pseudo-idealistica del capo e del popolo non è che la effettiva identità anarchica dello schiavo e del tiranno. Mussolini non era una persona, ma una vuota maschera, un simbolo appunto di questa indifferenziazione totalitaria, l'idolo vuoto della massa informe, identico ad essa. Quando la massa totalitaria, attraverso la resistenza e la guerra e il rinato senso della libertà, si è fatta popolo, ha trovato la sua autonomia, anche il suo idolo si è dissolto. Non mancava che una morte anonima a sancirne la fine e a segnare un principio. Mussolini non era una persona né un carattere, ma l'espressione di tutto quello che di impersonale e non caratterizzato giaceva nell'animo degli italiani. Di qui la sua mutevolezza, il suo istrionismo e quella sua straordinaria, contagiosa volgarità. Era come una concrezione di sogni velleitari, di rancori nascosti, di paure. Era il frutto della paura della libertà. Lo stesso terrore di cui era impastato era la fonte della sua triste potenza. Di fronte agli uomini liberi, Mussolini non esisteva. La sua immagine, la sua sigla, la sua voce, per quanto infinitamente ripetuti come incanti, non avevano presa. Il modo oscuro della sua morte riporta Mussolini ai suoi veri termini, e dimostra come una civiltà di uomini liberi sia cominciata, per la quale gli idoli sono nulla e non esiste il terrore.